Non so che ora abbiamo fatto. 4:10, bene. Abbiamo ancora un po' di tempo. Io mi scuso, ma probabilmente dovrò scappare a un certo punto, ma nel caso c'è Federico che può restare un po' di più. Appunto, anche questa voleva essere l'evocazione di un confronto, l'evocazione di qualcosa da fare insieme, quindi immagino che poi avremo suscitato dubbi e domande, qui fatele a voi. Come io premetto che sono uno storico di professione, insegno qua storia, per cui devo dire che ho ascoltato con molto interesse questo indubbio, ma con un po' di preoccupazione ciò che avete detto. Preoccupazione anche metodologica, siccome qua ci sono molti miei studenti, come dire, i campi, a mio modo di vedere, mantenuti separati. Preoccupazione che se infatti si è sciolta quando, giustamente detto, sono due strade complementari: narrazione e ricerca storica. Io sono uno storico di professione e sono anche un veterano storicista. Credo che i miei maestri rimangano Hegel, Marx e Croce. E costoro mi hanno insegnato che la storia è comunque una scienza non esatta, perché non è che 2 più 2 fa 4, però rimane pur sempre una scienza. E non si fa coi 6. Questo lo volevo dire. No, ecco, diciamo, quello che mi ha spaventato, lo dico onestamente, perché proprio per l'interesse con cui ho ascoltato quello che avete detto, lo dico proprio, diciamo, fuori dentro. Poi c'è tutto il bisogno di raccontare nuovamente, bisogna stare attenti a raccontare nuovamente. C'è un signore, un giornalista che passa da storico, che si chiama Pansa, che ci sta raccontando nuovamente che cosa è stata la resistenza. E lo fa in una maniera che, come dire, nella notte tutti i gatti sono grigi. No, nella notte non è vero che tutti i gatti sono grigi. C'è chi lottava una buona casa e c'è chi lottava una cattiva casa. Oppure avete detto azzardare cose non verosimili. Ma nella storia si possono anche azzardare cose non verosimili. C'è qualche anno fa qualcuno ha tentato di azzardare che Carlo Rosselli non è stato ucciso dai fascisti, ma addirittura è stato ucciso dagli anarchici che si volevano vendicare perché Carlo Rosselli non aveva preso posizione per l'uccisione dell'anarchico Vernelli. E questa cosa è andata avanti per tanto tempo, finché fortunatamente Mimmo Franzinelli ha pubblicato l'anno scorso un libro sull'assassinio Rosselli e ha portato le carte, ha portato i documenti, ha fatto storia. Ha portato la scienza per così dire. Quindi, come dire, vi ringrazio della lezione perché l'ho ascoltata con molto interesse, però io penso che due campi debbano sempre rimanere distanti, ma non lo dico cosmopismo, non è che dico la storia è superiore alla fiction, assolutamente. Sono però punti separati. Uno dei libri che mi è piaciuto di più, per esempio, è quello di Montalbano Franco, che immagina di essere il biografo di Franco che deve raccontare la vita di Franco. Ed è un libro bellissimo, però non è storia. Faccio questo solo per puntualizzare. No, sì, ti ringrazio. Hai perfettamente ragione dal punto di vista dello storico, no? Nel senso che, appunto, nella prospettiva storicista, la storia non si fa nemmeno coi sé. Perché no, gli eventi si tengono uno con l'altro, per cui fare un'ipotesi controfattuale significa in realtà negarli tutti, cioè con le ipotesi controfattuali puoi dire qualunque cosa e quindi la storia non si fa coi sé. Però la narrativa si può fare coi sé, no? Cioè rispondere a un tentativo ucronico come quello di Philip Dick nella Svastica sul Sole, che in fondo i nazisti non avrebbero mai potuto vincere la guerra per tutta una serie di questioni, no? Non avrebbe senso nel campo della narrativa. E ovviamente dall'altra parte non avrebbe senso che Dick lo proponesse come un'ipotesi storica maturata da ricerche, no? Quindi credo che appunto l'importante sia nella separazione dei due campi. Però credo che, per esempio, rispetto all'operazione, e sia nella separazione dei due campi e appunto nel sottolineare quando si fanno determinate operazioni, io sono un narratore, io non sono uno storico, quindi mi prendo la responsabilità della mia fiction, come avrebbe dovuto fare, secondo me. Il fatto di Spike Lee è giustissimo, però Pansa massa sta facendo un'altra operazione con la pretesa di essere storico. Perfetto, questo secondo me diciamo è il... Questo è il problema che c'è, però dall'altra parte credo che la risposta avanza a sua volta senza fare la stessa confusione di ruoli, ma non debba essere soltanto storica. Cioè che lui stia facendo un'operazione narrativa e mitica, in qualche modo, mitopoietica, sulla resistenza, un'operazione che va nella direzione del significato più che nella direzione della verità, e che quindi vada combattuta una battaglia non solo nella direzione della verità, ma anche nella direzione del significato. Cioè in qualche modo che le cose che lui racconta, facendo credere che il suo non è racconto ma è proprio ricerca storica con tutti i crismi, vadano raccontate anche in un altro modo. Cioè la paura che io ho a volte è che questa idea che appunto la fiction, la narrativa viene usata per sovvertire la verità storica ci porti poi a non raccontare più, a pensare che l'unico modo per reagire a questo tipo di operazioni è l'appello alla verità, alla razionalità, ai fatti. Beh, io credo che ci si debba appellare anche alle storie, che non si debba smettere di raccontare perché altri usano la narrazione in una maniera distorta, no? Sì, sì, no. Secondo me il caso di Barsa infatti è proprio molto interessante, ad esempio è azzeccatissimo. Credo che in sostanza il problema è questo, l'appello appunto all'emozione, la narrazione serve anche a creare un certo tipo di sensibilità e a innalzare la soglia dell'attenzione su certe questioni, non dimentichiamoci. Cioè in Italia c'è stata una generazione di scrittori trattino partigiani nel dopoguerra, no? Pavese, Vittorini, Fenoglio, eccetera, ma che cosa pensavano di fare questi? Che erano anche degli intellettuali, voglio dire, testimoni oculari, eccetera. Pensavano di scrivere l'epos della resistenza, no? L'epos non in senso religioso, ovviamente, ma il racconto della resistenza come racconto fondativo della nazione che si stava costruendo, che si stava ricostruendo, no? Questa è stata la grande operazione letteraria che loro hanno tentato di fare. Cos'è sopravvenuta però poi? Un po' per il passare del tempo, un po' per cause politiche che adesso sarebbe lungo specificare, è sopravvenuta la tecnicizzazione di quel mito. Uso la parola mito nel senso letterale, cioè proprio di mitos, no? Di racconto, di narrazione, appunto, collettiva. La tecnicizzazione, per dirla con Fulvio Iesi, insomma, cioè è stato ricavato dall'alto, è stato istituzionalizzato e imposto dall'alto. Quanto ci hanno rotto le scatole le commemorazioni con le colonne, gli altari della patria e via dicendo, no? E quel mito piano piano, mentre morivano i partigiani, mentre certi autori non c'erano più, eccetera, quel mito piano piano ha perso verve, ha perso una dimensione narrativa, è rimasto il dibattito tra gli storici, ma ha perso una dimensione narrativa, non è più nel senso comune, appunto, non è di fatto un mito fondativo, che nonostante sia scritto nella Costituzione, voglio dire, ma è scritto sulla carta, non è scritto nelle coscienze, voglio dire. Questo è il problema, secondo me, il vantaggio, appunto, una delle funzioni che può avere la narrativa in questo senso è anche questa, quindi è complementare anche da un punto di vista, secondo me, strettamente politico alla ricerca storica. Perché può rivitalizzare anche l'interesse e appunto su certe questioni, parlo dell'interesse collettivo, dell'interesse diffuso, appunto. Ho fatto l'esempio della letteratura, ma potevo fare quello del cinema, ovviamente. Dopodiché i puntini sulle i sono d'accordissimo, vanno messi, anche perché è interesse nostro di narratori storici, ci mancherebbe altro, le invasioni di campo sono poi rischiose. Io avevo una domanda molto semplice: quanto c'è di storico nei vostri libri? Faccio un esempio su La Stella del Mattino. Mi sembra che, io ho letto tante versioni potenzialmente nel leggere tutto, però che si ipotizzi una conoscenza tra Tolkien e Lorenz Arabia. Tra Tolkien e Lorenz Arabia. Allora, quanto c'è di storico che c'è di fatto? Oppure in 54? Tutta la vicenda del film in quella zona, quanto è vero e quanto è appunto, ecco che si creavano poi in tema. Grazie. Ecco, appunto, se uno mi dovesse attaccare come romanziere sulla base della quanta verità c'è nei nostri romanzi, in effetti uno si sarebbe già messo in un angolo da solo. Il vantaggio del romanziere storico, però, no, non lo so, sto usando strumentalmente la domanda, il vantaggio del romanziere storico è quello che laddove lo storico si deve fermare, appunto, è tutta più formulare un'ipotesi, io posso costruire un'autostrada, quindi mi posso inventare che nell'anno in cui non è stato da nessuna parte, che Grant ha preso parte a una missione dell'intelligence britannico per andare a incontrare il maresciallo Tito in Jugoslavia, per esempio. Magari cerco di farlo in maniera più verosimile possibile, cioè in modo che non crei di fatto un continuum temporale parallelo al nostro, cioè non è un'operazione ucronica, ma tutto sommato plausibile. È esattamente la stessa cosa che succede in Stella del Mattino. È molto improbabile che Lorenz e Tolkien si siano conosciuti davvero, nonostante vivessero, abbiano vissuto per un periodo contemporaneamente a Oxford, però è plausibile, o perlomeno la narrazione in quel caso cerca di rendere plausibile e compatibile con la prosecuzione delle loro vite quell'incontro. Sì, in effetti ho usato la figura dell'autostrada, ma non è molto africana, forse più un ponte di corde, traballante alle volte, nel senso che questa è la scelta che abbiamo fatto noi, abbiamo fatto la scelta della radicale verosimiglianza, non sempre, comunque nella maggior parte dei romanzi, sicuramente nei romanzi che abbiamo scritto collettivamente. Non è l'unico modo, ci mancherebbe altro, è quello in cui ci troviamo più a nostro agio, fondamentalmente perché la storia ci piace molto e quindi ci piace molto tirar fuori le storie dalla storia e provare a combinarle assieme, cercare i coni d'ombra appunto e costruire questi ponti, ok? Usiamo questa immagine che è meglio, che sono abbastanza semplici in effetti, magari si passano una volta, non sono autostrade, quindi sì, l'immagine di manovra per noi, ce lo imponiamo, non è molto ampio. Tuttavia, secondo me, il bello è quello. Cioè, è vero, uno potrebbe fare anche un'operazione diversa, cioè quella anche all'estremo opposto di inventarsi ex novo un intero universo, parallelo, di scrittori fantasy, di fantascienza, assolutamente dignitosissime conoscete e apprezzabilissime. Tuttavia, c'è qualcosa che io sento in comune con quel tipo di scrittori, appunto. Abbiamo citato Tolkien, tanto per dirne uno, abbiamo citato Dick, cioè. Ovvero, sono scrittori che scrivevano romanzi molto, cioè non ricavavano angolini dentro il nostro mondo per inserire il nostro. Hanno immaginato dei mondi, uno lo può immaginare appunto ex novo, immaginando la Terra di mezzo, per esempio, o un altro pianeta, o un altro futuro, una dimensione parallela, ironica, eccetera, oppure ha immaginandosi un'epoca storica del passato, perché no? Usando le fonti storiche, usando i personaggi storici, magari facendo interagire con i personaggi di fiction, che più o meno quello che facciamo noi. In questo senso mi risulta anche più facile l'operazione di qui sopra, cioè quella di provare a costruire narrativa che sia una porta d'accesso, appunto, e non soltanto una qualcosa di conchiuso, una storia che inizio, prosecuzione, fine, per carità, ripeto, letteratura dignitosissima, ma è un'altra cosa. L'aspirazione nostra va in un'altra direzione, appunto, quella di aprire una porta sul mondo e poi chi lo vuole praticare, chi si vuole avventurare lì dentro, lo fa, ecco, e perché no, potrebbe farlo insieme a noi, proseguendo la narrazione con ogni mezzo necessario. È scaduto il tempo forse, no? Sì, allora, dal punto di vista della costruzione di comunità, noi posso dirvi che probabilmente uno dei motivi per cui continuiamo a fare quello che facciamo, se no probabilmente ci saremmo andati all'Ipica già da tempo. Nel vero e nel male siamo riusciti evidentemente a comunicare e a ricevere degli input noi stessi che ci hanno stimolato avanti. Perché senza lì avanti non ci vai, per come la vediamo noi, come abbiamo esposto il nostro modo di procedere, di concepire la letteratura, è indispensabile la sinergia, non solo con gli storici, che è importante, ma proprio con i lettori, con chi li legge. Dopodiché c'è, come dire, un livello ulteriore, che è quello della partecipazione alla narrazione, quello che abbiamo cercato di fare con alcune operazioni letterarie e editoriali. Cioè quello di provare a invitare altri con ogni forma narrativa, dalla musica al fumetto, alla scrittura e via dicendo, a partecipare appunto all'esplorazione dei mondi che provavamo ad aprire. E questo è un altro capitolo ancora. L'industria culturale, come dire, mi sembra che ci sopporti ogni tanto ci esalta, ecco, e quello è il momento in cui uno deve un po' preoccuparsi, perché di solito in questo paese non viene esaltato per essere accantonato, messo da parte, non significato. Tutto sommato mi rendo conto che non sono ancora del tutto vaccinati, ecco, rispetto alla nostra permanenza nell'industria culturale. Questo mi pare, ecco. Ci siamo, qualcuno ha sperato anche che forse venissimo meno nel corso dell'ultima decina d'anni, e siamo ancora qui, ma questo qualcosa vuol dire, no? Quindi il bilancio è positivo per quanto ci riguarda. Ragazzi, il nostro tempo è scaduto, ringraziamo i Wuming. Semplicemente un quarto d'ora accademico, giusto per concludere con solo che noi siamo tirati con i tempi, abbiamo perso delle lezioni, il quarto d'ora accademico ce lo buttiamo per fare lezioni. Ci abbiamo pensato. Se l'avessi saputo, c'era solo un'aula libera, però avevo 48 posti, capito? Ma mi potevo spostare nella tercera sala. Se l'avessi saputo mi sarei organizzata diversamente. Giù, per favore, giù! Butti questo che io... Adesso.